personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Noi abbiamo delle aspirazioni come esseri umani, anche diverse naturalmente, ma ce n'è una comune, quella di vivere a lungo. Ognuno di noi intimamente, da un lato, è quasi convinto che non morirà e purtroppo invece ci si sbaglia, e comunque è terrorizzato da questo tabù che è la morte. Se si potesse, credo che tutti noi vorremmo un'esistenza infinita, la vita eterna, e però il personaggio di cui oggi vi racconto la storia ha questo dono, che si muta in una condanna, perché lui non muore, la sua vita non si consuma nella vecchiaia, ma l'esistenza che lui conduce non assomiglia a quella di noi comuni mortali, perché lui è più simile a una bestia mostruosa, a una creatura infernale. Il segreto della sua immortalità non è socialmente accettabile, perché lui, per vivere la sua vita, diciamo, da non morto, deve nutrirsi di una bevanda particolare, il sangue umano. Qui narrasi la sconvolgente e spaventevole storia di Dracula, principe feroce e spietato, di come impalò uomini e li arrostì, di come ne bollì le teste in un calderone, di come li scuoiò vivi e li fece a pezzi, e poi ne beve il sangue. Dracul, meglio noto come Dracula, il principe della notte, il non morto, il vampiro per antonomasia. Oggi vi racconto la sua storia. È una storia che si dipana attraverso i secoli, da quando era un uomo come gli altri, sovrano di un regno nel cuore dei Carpazi. Era il difensore della cristianità contro gli invasori ottomani, e lui attraversò silenziosamente i secoli fino a ricomparire nella Londra vittoriana a metà dell'Ottocento in cerca di altro sangue per prolungare la sua innaturale esistenza. E questo è un viaggio lungo, comincia nel XV secolo, la data è incerta, diciamo attorno al 1430, in una cittadina al centro dell'attuale Romania, Sighisoara. Qui nasce Vlad III, figlio di Vlad II, governatore di Valachia, membro dell'Ordine del Drago. Dovete sapere che questo gruppo militare venne fondato a quei tempi per proteggere il cristianesimo dall'avanzata dei turchi, degli ottomani che premevano sul confine orientale dell'Europa ormai da due secoli, spinti da mire espansionistiche. Quando un uomo o un principe ha il potere ed è rispettato nel suo paese, può portare pace ovunque lui voglia. Ma se non ha potere, un potere più forte lo sovrasterà e farà di lui ciò che ne vorrà. E in queste poche parole c'è tutta la visione della gestione del potere da parte di Vlad III, che ha 14 anni quando il padre diventa re di Valachia, in un momento di grande instabilità politica con i turchi che stanno controllando il territorio fino al Mar Nero. E questo sovrano è costretto a un accordo con il sultano ottomano, e l'accordo prevede anche l'invio di due suoi figli, dei due cadetti, tra cui Vlad, che deve andare presso la corte turca. Insomma, per farla breve, la sfortuna vuole che dopo la firma del trattato il Papa annuncia la crociata contro l'Islam, annulla l'accordo che difende il confine orientale. Quindi i turchi, furiosi, trattengono i due figli del re di Valachia per 4 anni in ostaggio. Possiamo immaginare, insomma, la loro vita. Certo, non stavano passando dei momenti sereni. Forse proprio per questa prigionia, forse per le sofferenze vissute, il nostro protagonista diventerà il sanguinario che la storia ricorda e conquisterà addirittura il terribile soprannome di Vlad l'Impalatore. Quando Vlad torna in Valachia ha maturato un odio viscerale per i turchi, e quando sale al trono si lancia in una lotta senza quartiere contro questo nemico. Non si limita a combatterli, mette in campo una crudeltà inimmaginabile anche in tempi non facili, e certo nei quali, insomma, la crudeltà regnava. Il supplizio preferito che infligge ai suoi nemici è l'impalamento. Davanti al suo castello fa costruire una vera e propria foresta di pali che si estende per chilometri, e dalle sue finestre guarda agonizzare migliaia di nemici, comprese donne e bambini. Altri resoconti raccontano di torture folli, fa bollire i corpi dei prigionieri e poi costringe le madri a mangiare i figli. Insomma, è più vicino a un demonio che a un essere umano. E non si sa per certo, naturalmente, quanto siano veritieri questi resoconti. I documenti potrebbero anche essere stati condizionati dalle bugie, dalle esagerazioni dei tanti nemici di Vlad. E sta di fatto, insomma, che sicuramente ci troviamo di fronte a un sovrano efferato. E comunque le ragioni di questa propaganda negativa, quantomeno presunta, le spiega uno storico rumeno che si chiama Matei Kazaku. Il principe, non contento di reprimere gli ottomani, se la prese anche con i boiardi, le grandi famiglie del regno che tradizionalmente facevano le leggi. Eliminò i privilegi di una parte della popolazione per recuperare fondi in vista della guerra contro i turchi. E non c'è da stupirsi che questo suscitasse forti rancori. Vlad l'impalatore. Insomma, che siano più o meno vere le storie, i racconti sugli orrori perpetrati nei confronti dei nemici, lui ha una grande capacità, e questo è indubbio, la capacità di usare perfettamente il terrore per gestire il potere. E nonostante questo, il suo è un regno tormentato, difficile, viene deposto e torna al potere ben 3 volte, l'ultima nel 1475. E sulla sua morte, ancora oggi, il velo di mistero non è stato sollevato. Ci sono delle fonti che dicono che 2 mesi dopo il suo ritorno al potere, Vlad III fu ucciso nel corso di una battaglia contro i turchi. Secondo altri, invece, era caduto vittima di una cospirazione. Rimane un mistero anche l'ubicazione della sua tomba. La tradizione narra che gli fu tagliata la testa e spedita a Costantinopoli assieme alla sua spada, e che il corpo invece fu seppellito nel monastero di Comana. Poi in tempi recenti è emersa un'altra teoria per cui Vlad stia riposando senza testa nel monastero di Snagov, che è un'isola al centro, cioè il monastero è su un'isola al centro di un lago a 35 km da Bucarest. Nel 1933 però alcuni archeologi hanno compiuto scavi in questo sito e hanno fatto una scoperta inquietante, perché la presunta tomba di Vlad III è piena solo di ossa di animali. Il regista Francis Ford Coppola, che ha diretto il film Dracula nel 1992, parla così delle storie sul nostro protagonista. Vlad l'impalatore è una figura davvero avvolta dal mistero. È stato scoperto un piccolo monumento a lui dedicato su un lago proprio vicino a Bucarest. Io sono andato anche alla tomba di Vlad e ho scoperto che non hanno mai trovato la testa. È stata separata dal corpo e dai suoi resti. Ci sono un sacco di storie e di miti meravigliosi legati a questa figura, ma io ho scelto l'immagine dell'eroe. Quattro secoli dopo quegli avvenimenti, esattamente il 3 maggio 1890, un giovane avvocato inglese, Jonathan Harker, parte da Londra per un viaggio di lavoro. Deve recarsi lontano per concludere la vendita di una villa londinese. L'acquirente è un nobile della Transilvania, il conte Dracula. 25 maggio, Budapest. Questa mattina ho lasciato Budapest. Ho avuto come l'impressione di lasciare il mondo occidentale per l'Oriente. Il distretto in cui sto per entrare si trova nell'estrema parte orientale del paese, proprio nel punto di confine fra 3 stati, la Transilvania, la Moldavia e la Bucovina, al centro dei Carpazi, una delle aree più selvagge e meno conosciute d'Europa. Jonathan ha lasciato a Londra la fidanzata Mina, si sarebbero dovuti sposare di lì a poco, poi l'impegno di lavoro li ha allontanati temporaneamente. Il viaggio dovrebbe durare 10 giorni e poi loro potranno finalmente convolare a nozze, ma non sarà così. L'acquirente, il conte Dracula, ha inviato una lettera al giovane avvocato e lui questa lettera la legge durante il viaggio. Caro amico, benvenuto nei Carpazi. Vi attendo con ansia. Dormite bene questa notte. Domattina alle 3 parte la diligenza per la Bucovina, sulla quale è stato fissato un posto per voi. Al passo Borgo sarete atteso dalla mia carrozza, che vi condurrà da me. Spero che il viaggio da Londra sia buono e che vi sia piacevole il soggiorno nel mio bel paese. il vostro amico Dracula. Il vostro amico Dracula. L'impatto di Jonathan con quel mondo così diverso dalla sua Londra vittoriana è molto forte. Lui alloggia in una locanda del posto per la notte e attorno a lui la gente lo guarda con aria preoccupata, sono spaventati. Quando lui chiede informazioni su Dracula, sul suo castello, in molti si fanno segno della croce. Jonathan non ne capisce le ragioni, però naturalmente la sua inquietudine sta montando. La locanda, che è una donna anziana, cerca di dissuaderlo dal proseguire il suo viaggio e al suo rifiuto gli mette al collo una collanina con un crocifisso. Jonathan è inquieto, ma è uno ligio al lavoro, prosegue il viaggio fino al castello del conte. È il classico maniero, quello dei film horror, immerso nella nebbia con un portone enorme, e al di là di questo portone Jonathan incontra per la prima volta Dracula. E lo descrive nel suo diario come un vecchio, alto, sbarbato accuratamente, con dei lunghi baffi bianchi, vestito di nero da capo a piedi, ha in mano una vecchia lanterna d'argento e la luce di questa lanterna proietta delle ombre lunghe, oscillanti. Poco dopo, a cena, Jonathan analizza l'aspetto di quest'uomo in maniera più approfondita. Il volto era grifagno, sporgente l'arco del naso, con le narici particolarmente dilatate. La fronte era alta, a cupola, e i capelli erano radi intorno alle tempie, ma altrove abbondanti. Assai folte le sopracciglia, quasi unite alla radice del naso, cespugliose tanto che i peli sembravano attorcigliarvisi. La bocca era dura, d'un taglio alquanto crudele, con bianchi denti segnatamente aguzzi, i quali sporgevano su labbra la cui rossa pienezza rivelava una vitalità stupefacente in un uomo così attempato. Quanto al resto, orecchie pallide, assai appuntite all'estremità superiore, mento marcato e deciso, guance sode ancorché affilate. L'effetto complessivo era di uno straordinario pallore. Questo dovrebbe essere un soggiorno destinato a durare poco, il tempo di concludere l'affare, ma nel corso dei giorni questo soggiorno si trasforma in ben altro, perché intorno a Jonathan cominciano a sommarsi indizi, stranezze, eventi inquietanti, e il giovane comincia a notare dei dettagli che gli erano sfuggiti a una prima occhiata. Per esempio, il conte ha i palmi delle mani ricoperti da peli folti, e questo è il meno. Dietro ai suoi modi gentili, delicati, si nascondono improvvisi scatti d'ira, violenti, immotivati, scatti d'ira che lo trasfigurano. Una sera, mentre si radia davanti a uno specchietto del suo corredo da viaggio, il conte quasi gli si materializza alle spalle. In tutto il castello non c'è neanche uno specchio, e Jonathan capisce il perché. Ho sussultato, sorpreso di non averlo scorto, visto che lo specchio rifletteva tutta la stanza dietro di me. Dopo aver risposto al saluto del conte, mi sono voltato di nuovo verso lo specchio per capire come potevo essermi sbagliato. Ma questa volta non c'era possibilità di errore. L'uomo era vicino a me e lo vedevo con la coda dell'occhio, ma non si rifletteva nello specchio. Si vedeva tutta la stanza alle mie spalle, ma nessun segno di un uomo che non fossi io. Eh già, l'immagine di Dracula non si riflette nello specchio, e questo svela in qualche modo la sua natura non umana. Insomma, ormai i timori di Jonathan sono concreti. Al castello lui non è un ospite, è un prigioniero, e non ha però ancora una risposta alla sua domanda fondamentale: chi è Dracula? O meglio, addirittura, cos'è? Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Vi sto raccontando la storia di Dracula, del conte Dracula, il non morto per eccellenza, un essere che sembra avere il dono o forse la condanna della vita eterna. È una caratteristica che gli permette di attraversare i secoli, dall'Europa orientale, dove ha vissuto da uomo in carne ed ossa come sovrano della Valacchia. Vlad III, lui arriva alla Transilvania, del XIX secolo, e lì lo abbiamo lasciato nel suo tetro e solitario castello. Lui sta tenendo praticamente prigioniero il giovane avvocato londinese Jonathan Harker, che era arrivato per concludere l'acquisto da parte del conte di una villa a Londra, perché è lì che Dracula vuole sbarcare per portare in Inghilterra la sua sete di sangue. Jonathan ormai ha capito di essere al cospetto di un essere soprannaturale. La sua immagine non si riflette nello specchio, non ha mai fame, non ha mai bisogno di mangiare, beato lui. Appare, scompare all'improvviso. Un giorno, guardando dalla finestra, l'avvocato assiste con orrore alla scena del conte che, come una lucertola, esce dalla finestra della propria camera e striscia lungo le mura alte del castello. Jonathan ormai è sull'orlo della follia. La situazione peggiora ancora quando si addormenta in una stanza del castello che non aveva mai visitato e si risveglia tra le braccia di tre donne dai denti aguzzi e dal pallore mortale. Sono le spose di Dracula. Tra un abbraccio e una carezza cercano di morderlo sul collo, vengono interrotte da un furente Dracula che urla: come osate toccarlo? Quell'uomo appartiene a me. E insomma, per il giovane avvocato il quadro si sta completando rapidamente. Lui è prigioniero, destinato al conte, alla sua sete di sangue. Praticamente è arrivata la certezza: Dracula è un vampiro. La grande cassa era contro la parete, il coperchio posato su di essa. Lì giaceva il conte, ma si sarebbe detto che la giovinezza in lui fosse rinata, perché i capelli e i baffi bianchi erano diventati grigio ferro. Le guance erano più piene, la pelle sembrava soffusa di rosa, più rosa che mai la bocca, poiché sulle labbra erano gocce di sangue fresco che ruscellavano dagli angoli, scivolando sul mento e il collo. Intanto in Inghilterra la fidanzata di Jonathan, Mina, è in attesa del suo ritorno, non ha notizia da settimane, è ospite di un'amica, Lucy, nella sua tenuta di famiglia a Whitby, e cominciano anche a lei ad accadere strani fatti. Nessuna notizia di Jonathan. Comincio ad essere davvero in ansia, anche se non so perché. Lucy è più sonnambula che mai e non passa notte senza che mi svegli aggirandosi per la stanza. Insomma, Lucy da giorni sembra stare male, è sempre più pallida e nervosa, di notte vaga, sonnambula per le stanze. E poi le stranezze non sono limitate alle mura della casa. Giorni prima, durante una terribile tempesta, è approdata a Whitby una nave senza equipaggio, solo il cadavere del capitano legato al timone, con in tasca una pagina del diario di bordo in cui si parla di un demone che infesta la nave. E nella stiva l'imbarcazione trasporta un carico particolare, grandi casse di legno contenenti terriccio e destinate a una villa acquistata di recente da uno sconosciuto compratore. E se queste stranezze non fossero abbastanza, ci sono dei testimoni che riferiscono che subito dopo l'approdo dalla goletta è uscito un cane nero, un cane selvaggio che è subito fuggito nella brughiera. E lo strano comportamento di Lucy è iniziato proprio all'indomani dell'arrivo di questa misteriosa nave, e nel suo diario Mina appunta i peggioramenti dell'amica fino all'apice. Una notte si rende conto dell'assenza di Lucy in casa ed esce per cercarla, e la intravede nel buio, la segue fino al vicino cimitero. Ero giunta quasi in cima quando ho potuto vedere la bianca figura. Adesso finalmente era abbastanza vicina da distinguerla bene, sia pure nelle pause di luce. Indubbiamente c'era qualcosa, lunga e nera, piegata sopra la bianca sagoma semireclina. Ho chiamato Lucy, Lucy, con voce impaurita, e il qualcosa ha sollevato, ma sì, una testa. E dal luogo dove mi trovavo ho potuto intravedere un volto pallidissimo e con occhi rossi, balenanti. Insomma, il conte Dracula è arrivato in Inghilterra, è lui la causa degli strani comportamenti di Lucy e anche della salute della ragazza, che peggiora a vista d'occhio perché sul collo ha due buchi rossi, due ferite, e le persone che le stanno accanto non sanno che quelli sono i segni inequivocabili del vampiro. Un amico di questa ragazza, il direttore del manicomio locale John Seward, decide di chiamare il suo vecchio professore d'università, che si chiama Abraham Van Helsing. Intanto a Londra arrivano notizie di Jonathan in una lettera indirizzata a Mina. Cara signorina, il vostro fidanzato è salvo, affidato alle cure delle buone sorelle del Santissimo Sacramento. Il signor Harker crede che la vostra vita sia in estremo pericolo e desidera che voi lo raggiungiate per potervi sposare immediatamente. Con tutte le benedizioni, la vostra suor Agatha. Emina parte immediatamente, raggiunge il fidanzato a Budapest e pochi giorni dopo i due si sposano nell'ospizio gestito dalle suore, dove Jonathan è ricoverato. Non aspettano un solo giorno e ripartono per Londra, perché sono preoccupati per la salute di Lucy, e hanno ragione a esserlo, perché quando arrivano la trovano molto peggiorata. Intorno al capezzale della ragazza ci sono il fidanzato, Sir Arthur Holmwood, il direttore del manicomio, John Seward, e un terzo amico, un texano che si chiama Quincy Morris. Tutti attendono però l'arrivo illuminante del professor Van Helsing. Professor Van Helsing, siete stato gentile a venire. Vado sempre in aiuto dei miei amici quando mi chiamano. Allora, Jack, ditemi tutto del vostro caso. Presenta tutti i sintomi di una comune anemia. Yeah. Le analisi ematologiche appaiono normali, ma non lo sono. Manifesta una continua perdita di sangue. Non riesco a trovarne la causa. Perdita di sangue? Come? Io... Chiudi la finestra. È solo una bambina. Aiutami. Non c'è tempo da perdere. Occorre fare immediatamente una trasfusione. Toglietevi il soprabito. Tutti gli uomini si alternano per donare il sangue a Lucy, provano a fermare il rapido deperimento della ragazza, sembrano riuscirci. Lucy, almeno per il momento, si allontana da quel confine labile, terribile, che c'è tra la vita e la morte, riprende colore, il suo respiro torna normale, ma Van Helsing ha visto sul collo della ragazza due segni rossi e lui sa bene come interpretarli. È il momento di spiegare a tutti che questo che hanno di fronte non è una malattia, non è anemia, è l'opera di un vampiro. Quei segni sulla sua gola. Nessuna malattia, nessuna lacerazione. Sono sicuro che la perdita di sangue è avvenuta da lì. Ah, e dove finite il sangue? Un tempo eravate uno studente attento, Jack. Usate il cervello, dove è finito il sangue? Le lenzuola ne sarebbero intrise. Esattamente. Voi fate sì che i vostri occhi non vedano, che le vostre orecchie non odano ciò che non riuscite a spiegare. Qualcosa è andato lì, le ha succhiato il sangue ed è volato via, suppongo. Yeah, perché no? È geniale. Uno di voi istruiti dottori o chiunque voi siate vuole dirmi cosa sta succedendo alla mia Lucy? Jack, voi siete uno scienziato. Non credete che vi siano cose in questo universo che non si riescano a capire, ma sono vere? Mesmerismo, ipnotismo, campi elettromagnetici. Signori, qui non stiamo combattendo una malattia. Quei segni sul collo della signorina Lucy sono stati fatti da qualcosa di innominabile. Morto ma non morto. Ci bracca per qualche oscuro scopo che ancora non comprendo. Per vivere, si nutre del prezioso sangue di Lucy. È una bestia, un mostro. Il gruppo d'amici è sconcertato, anche Van Helsing non sa esattamente chi sia l'essere che sta cercando di fare sua Lucy bevendo nel sangue. Non c'è tempo di organizzarsi, di provare a difendersi. Dracula intanto, in un ultimo attacco alla povera ragazza, la uccide assieme alla madre anziana che è nella stanza con lei. Però la morte di Lucy non è la fine di tutto, è solo l'inizio di un pericolo più grande, perché Dracula non si fermerà, cercherà di conquistare quel nuovo territorio di caccia, di fare altri adepti, di trasformare esseri umani in mostri proprio come Lucy, che ormai è diventata un vampiro. Anche lei dovrà placare la sua sete di sangue. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Lo sbarco di Dracula sul suolo inglese sta portando lutti e terrore. Lui ha lasciato il suo castello nel cuore dei Carpazi, ha preso dimora in una villa a Carfax sulle rive del Tamigi. Di giorno riposa in una bara appoggiata sul terriccio trasportato dalla Transilvania e di notte cerca le sue vittime. E la prima è stata Lucy, il conte l'ha uccisa, meglio, l'ha trasformata in una non morta. E adesso tocca a lei placare la sua sete di sangue, perché anche Lucy è diventata un predatore, cerca le sue vittime nella zona del cimitero dove è sepolta. E sono le vittime più indifese che esistono. La popolazione di Hampstead è attualmente turbata da una serie di eventi. Durante gli ultimi due o tre giorni si sono verificati parecchi casi di bambini che si sono allontanati da casa oppure non rientrati dai loro giochi nella brughiera. Si trattava sempre di bambini troppo piccoli per fornire spiegazioni accettabili, ma tutti sono concordi nell'accampare la scusa di essere andati con una bella bianca signora. Può darsi tuttavia che la faccenda abbia un risvolto più serio, perché alcuni dei bambini, precisamente quelli che sono stati assenti tutta la notte, risultano leggermente graffiati o feriti alla gola. Le notizie che arrivano dai giornali insospettiscono il dottor Seward e il suo vecchio professore Van Helsing. Loro stanno esaminando le ferite dell'ultimo bambino preso dalla bianca signora e Van Helsing non ha dubbi. Sono i segni del morso di un vampiro. Il vampiro in questione è lei, è Lucy. E c'è solo un modo per fermarla: piantarle un paletto di legno nel petto e staccarle la testa dal collo. Prima però bisogna convincere gli altri, a partire dal fidanzato della ragazza, Sir Arthur. Insieme a Seward e a Quincy Morris, loro vanno nella cripta dove è sepolta la ragazza. È necessario dissacrare la tomba della povera Lucy. La sua morte è stata abbastanza orribile. Se Lucy è morta, non potremo farle nulla di peggio. Ma se non lo è? Eh? Cosa intendete dire? Che è stata sepolta viva? No, dico soltanto che è una non morta. Non morta. Questo è pazzesco. Un momento di coraggio e sarà tutto finito. Prendi questo paletto nella mano sinistra. Poggia la punta sul cuore. E in nome di Dio colpisci. Fallo ora! Adesso Lucy può riposare per sempre. Lucy però è solo una vittima. Bisogna trovare, bisogna distruggere la creatura che ha dato inizio a tutto questo. Le indagini di Van Helsing si concentrano sul diario di Jonathan, quello che gli ha messo a disposizione la fidanzata, Mina. Il vecchio professore è un uomo di scienza e però ha la mente aperta e rapidamente capisce che il vero antagonista di questa lotta terribile per la vita è lui, è il Conte Dracula. Riunisce ancora una volta il gruppo di persone testimoni a vario titolo di quegli accadimenti: Stewart, il texano Morris, Sir Arthur, Mina, Jonathan Harker, perché anche loro devono sapere per decidere cosa fare. I vampiri esistono realmente. E questo combattiamo, e questo affrontiamo. Alla forza di 20 e più persone. Costui esercita il suo potere anche sugli esseri più infimi: il pipistrello, il ratto, il lupo. Può apparire sotto forma di bruna, vapore, nebbia e dileguarsi quando vuole. Ora, Dracula può fare tutto ciò, ma non è libero. Per accumulare questa forza malefica deve riposare nella terra del suo paese natio. È lì che lo troveremo e che lo annienteremo definitivamente. Ormai i cinque sono diventati un gruppo che ha un solo scopo: distruggere Dracula. Raccolgono gli indizi, le casse con la terra, l'acquisto della villa Carfax, l'arrivo a Londra con la nave fantasma, la fuga con le sembianze di un cane nero. Però non è una caccia a senso unico questa, perché la preda a sua volta è il predatore, è dotato non solo di ferocia disumana, ma è anche scaltro, intelligente, e i cacciatori stanno studiando come annientarlo, e il conte fa la sua nuova mossa, perché di notte entra nella camera di Mina e la vampirizza. Non solo le succhia il sangue, ma la costringe a bere il suo ferendosi il petto con le unghie affilate. Insomma, uno scambio di sangue che ha come scopo fare di Mina la sua sposa e la sua compagna. Mina sopravvive all'assalto di Dracula, ma ormai è contaminata. Solo la morte del vampiro forse potrà salvarla da un destino di dannazione, quello stesso destino che Dracula vive da secoli e che Mina intuisce, forse perché adesso rischia di percorrere la sua stessa terribile strada. Quella povera anima che ha causato tutto questo dolore è di tutti il caso più triste. Pensate solo quale sarà la sua gioia quando anch'egli sarà distrutto nella sua parte peggiore, così che la sua migliore possa godere dell'immortalità dello spirito. Dovete aver pietà di lui, sebbene questa non debba fermare le vostre mani affinché non gli apportino distruzione. E per giorni si gioca una specie di rimpiattino. Da una parte c'è Van Helsing con la sua intelligenza, col suo intuito, e dall'altra parte però c'è Dracula con la sua scaltrezza demoniaca e anche con i suoi poteri sovrumani. È una partita a scacchi: uno muove un pezzo, l'altro risponde con una difesa e un contrattacco. Il gruppo scopre che il conte ha disseminato le casse con la terra transilvana, e questo siccome la Terra gli serve per rigenerarsi, gli dà la possibilità di avere più di un nascondiglio dove sfuggire ai suoi persecutori, perché adesso Dracula ha diverse abitazioni come Saddam Hussein, ma loro trovano tutti i rifugi, distruggono tutte le casse tranne una, l'ultima. Ormai Londra non è più un posto sicuro per Dracula, lui sta perdendo la sua battaglia, può solo cercare di tornare tra le sue montagne, al suo castello, ma come farà? Van Helsing ha solo un modo per scoprirlo, perché Mina è stata toccata nel profondo dal morso del vampiro, da quello scambio reciproco di sangue con lui, loro sono come in contatto, Dracula vede attraverso gli occhi di Mina, però questa è un'arma a doppio taglio, Van Helsing capisce di poter usare questa connessione contro il conte Dracula, ipnotizza Mina e scopre così che l'ultima cassa è a bordo di una nave in partenza dal porto di Londra. Inizia una vera e propria caccia all'uomo, anzi direi una caccia al vampiro attraverso l'Europa. Se lui viaggia per nave, i suoi cacciatori decidono di precederlo via terra in treno. Siamo partiti da Londra in treno e abbiamo attraversato la Manica quella notte con il mare in tempesta, senza dubbio a causa del passaggio della nave del conte. Egli domina i venti, ma noi abbiamo un vantaggio. Col treno possiamo giungere alle porte di Varna in Romania in 3 giorni. Per mare gli occorrerà almeno 1 settimana. Da Parigi abbiamo valicato le Alpi e siamo giunti a Budapest. Il conte deve doppiare la rocca di Gibilterra, dove abbiamo posto un nostro osservatore, per poi pervenire sul Mar Nero a Varna. Lì troveremo la sua nave e la daremo alle fiamme. Il piano sembra perfetto, però ve l'ho detto che Dracula è scaltro. Infatti riesce a evitarli perché prosegue il viaggio in nave lungo il fiume, costeggia la zona dove sorge il suo castello. Il gruppo si divide per braccarlo. Van Helsing e Mina vanno direttamente al castello per occuparsi delle 3 vampire, delle spose di Dracula, perché se partecipassero anche loro allo scontro finale, le spose sarebbero 3 alleate pericolose del conte. E infatti il vecchio professore le trova, resiste a un loro attacco, le neutralizza con i paletti nel cuore. Intanto Seward, Jonathan e Quincy Morris non sono riusciti a intercettare la nave lungo il fiume, impedire lo sbarco, sono all'inseguimento di un gruppo di zingari che sta trasportando Dracula nella sua bara a bordo di un carro. I 3 sono armati e riescono a avere la meglio sulla scorta del conte. Nello scontro la cassa cade nella neve, è l'atto finale. Il sole sta calando dietro le montagne, pochi minuti e sarà buio, Dracula potrà ridestarsi. È Mina che racconta l'epilogo. Quincy! Ed ecco il conte che giace al suolo, in parte coperto di neve e terriccio in seguito alla brusca caduta. Era mortalmente pallido come una figura di cera e i rossi occhi ardevano di quell'orribile sguardo vendicativo che tanto bene conoscevo. Gli occhi hanno scorto il sole calante e l'espressione di odio si è cangiata in una di trionfo. Ma proprio in quella giù piomba il lampo del coltellaccio di Jonathan. Ho lanciato un urlo come l'ho visto fendere la gola e in pari tempo il coltello del signor Morris è sprofondato nel cuore del vampiro. È stato come un miracolo. Sotto i nostri occhi, il tempo di un sospiro, l'intero corpo si è dissolto in polvere, scomparendo alla vista. Proprio in quell'attimo di dissoluzione finale, sul volto gli si è dipinta un'espressione di pace. È la pace che arriva con la morte. Forse perché per il conte Dracula quell'esistenza non è stata una vita vera, ma una condanna all'oblio, all'odio degli uomini, e perché un mostro da odiare fa sempre comodo. Non c'è vita in questo corpo. Io sono niente. Senza vita. Senza anima. Cosa volete dire? Odiato e temuto. Sono morto per tutta l'umanità. Ascoltatemi. Io sono il mostro che gli uomini che respirano bramerebbero uccidere.